1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui, cari italiani, alle 7:17 minuti, debosciati d'Italia, che state facendo? Forza, forza con le vostre eterne colazioni, Dai, cari italiani, eccoci qui a parlare, a raccontare quello che c'è sui giornali e a ricordarvi che alle 8:15 parleremo di che cosa? Parleremo della strage che c'è stata, i numeri sono ancora incerti, l'ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. Le informazioni sono abbastanza imprecise, ancora frastagliate. Comunque avremo ospite Gianni Pittella e Magdi Allam, due candidati all'Europarlamento. Gianni Pittella lo è anche europarlamentare, così come Magdi Allam. E parleremo con loro alle 8:30. Le accuse sono solite, quelle all'Europa di non aiutarci, di girare la faccia dall'altra parte. Avremo ospite anche quel generale, ieri lo aveva annunciato, generale dei Carabinieri, che si è dimesso a Napoli, doveva controllare tutti i fondi europei, è stato messo lì, praticamente non gli è andato neanche un computer, non gli è andato neanche un telefono, lo hanno fatto lavorare. Lui, che è stato il generale che ha risanato in parte la ASL 1 di Napoli, ha detto: sapete che c'è, me ne vado, perché la pubblica amministrazione evidentemente non è in grado di far funzionare le cose. Sarà nostro ospite alle 8:15. Ora andiamo a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola. In questo martedì 13 maggio, intanto i titoli. L'apertura del Sole 24 Ore è apertura tipicamente finanziaria oggi. Borse, Europa ai massimi, questo è il titolo di prima pagina. Poi la vicenda del barcone che è affondato sulla rotta tra Libia e Lampedusa, l'apertura del Corriere della Sera, migranti, l'Italia accusa l'Europa, questo è il titolo. Per Avvenire invece, le stragi di migranti sulle rotte di morte, mentre il titolo del Manifesto, chiaramente molto crudo, c'è la foto di un barcone, esposizione universale. Il richiamo all'Expo, ma di un altro tipo, certo c'è. A proposito di Expo e dell'inchiesta, continuano i dettagli sulle persone arrestate e anche i titoli sui giornali. Repubblica apre così: la cupola controllava i manager. Expo, le ammissioni degli arrestati, li coccolavamo come belle donne. Questa è una delle intercettazioni sui manager pubblici. Il Fatto Quotidiano: Expo, la città della salute sui terreni avvelenati. La Stampa: soldi ai mediatori per lavorare, appalti Expo, prime ammissioni. Il Messaggero: inchiesta Expo, biglietti, cifre e ammissioni sulle tangenti. Mentre invece il Secolo XIX mette in prima pagina Scaiola: io come Andreotti, è l'altra vicenda giudiziaria che tiene banco. C'è invece un'apertura di Libero molto particolare, riguarda la sentenza Mediaset e uno dei giudici che ha condannato Silvio Berlusconi. Il titolo di prima pagina di Libero è: le strane relazioni del giudice che ha condannato Berlusconi. Si tratta di Claudio Disa, componente della sezione feriale della Cassazione, che secondo Libero frequenta una famiglia da oltre 30 anni nel mirino dei magistrati. Questo è il titolo di Libero, lo vedremo. Mentre il Giornale: Alè, 3 miliardi alla sinistra. Il governo appalterà la manutenzione degli immobili pubblici alla cooperativa coinvolta nell'inchiesta Expo. Come detto, però, voglio partire un po' da uno sguardo internazionale. Uno è nazionale, ci riguarda, perché è la vicenda che poi approfondiremo alle 8:30, ma è internazionale nel senso che provenivano dalla Libia come base di partenza, ma provenivano da chissà dove alcuni dei migranti morti a 100 miglia a sud di Lampedusa. Il numero per il momento è di 14 morti, ma si parla di oltre 150 dispersi, e per questo si ricorda la strage che c'è stata proprio vicino alle coste di Lampedusa lo scorso anno. Naufragio nel Mediterraneo, questo è il titolo per esempio a cui dedica questa vicenda il Manifesto. Il Manifesto a pagina 5 con Leo Lancari: la paura, scrive, che si possa trovarsi di fronte a un'altra tragedia come quella che accadde a Lampedusa il 3 ottobre scorso, quando in un naufragio morirono più di 300 immigrati. Un barcone con 400 migranti a bordo si è rovesciato ieri al largo delle coste libiche, 100 miglia a sud dell'isola di Lampedusa, e ancora non si conoscono le cause che hanno provocato questo ennesimo naufragio. Ma all'improvviso l'imbarcazione, forse sbilanciata dal peso di quanti si trovavano a bordo, si è capovolta rovesciando in mare il suo carico di disperazione. Ovviamente le parole sono sempre quelle che di tanto in tanto fuoriescono anche dai nostri politici. In questo caso l'Europa ci ha abbandonato, l'Europa non fa nulla. Prova a fare un'analisi più approfondita il ministro della difesa Roberta Pinotti, intervistata da Avvenire a pagina 4 da Angelo Picariello. Parla ovviamente di Mare Nostrum, cioè l'operazione messa in campo dalla Marina italiana per controllare il Mediterraneo e anche aiutare le imbarcazioni in difficoltà. Lei ha detto che Mare Nostrum è a tempo, ma i flussi non danno tregua, ministro Pinotti. Ho parlato di operazione a tempo per ribadire che non è pensabile sostenere noi da soli il peso di questa emergenza, non per dire che la situazione si va normalizzando, anzi, sulle nostre coste meridionali si stanno scaricando tutti gli insuccessi delle primavere arabe, delle guerre civili africane, la drammatica situazione in Siria, in Mali, in Centrafrica. Ora purtroppo anche in Libia la situazione si è fatta ancora più preoccupante e le statistiche dicono che i 2/3 di queste persone in fuga hanno titolo per essere accolti come rifugiati. Frontex ha fallito, chiede Avvenire. Frontex è il programma europeo. Frontex va ridisegnata completamente. Già la sua sede principale a Varsavia ci dice di una mission ormai insufficiente. Dunque la sede principale verrà in Italia? Sarà inevitabile, risponde il ministro alla difesa, così come si dovrà andare a una rimodulazione delle risorse che ora vengono destinati a noi solo 12 milioni, mentre Mare Nostrum conta 9 milioni al mese. E alla domanda andrà in Libia per affrontare la situazione? Non lo escludo, quando sarà chiaro l'interlocutore politico e la situazione già sarà stabile. O allora ci potrà essere una mia visita. E questo è il ministro della difesa, mentre le cifre le trovate sul Fatto Quotidiano a pagina 3 e sono cifre raccolte dal sito Fortress Europe, cioè Fortezza Europa. Il titolo di pagina 3 del Fatto Quotidiano, per la verità, è questo: la Fortezza Europa fa acqua, i morti, i soldi, le statistiche. Quante sono le persone che sono morte nel Mediterraneo tentando di arrivare in Europa dal 1988 a domenica scorsa, contate, recensite da Fortress Europe, ovviamente con approssimazione, erano almeno 19.603 le persone, ripeto, dal 1988 morte nel Mediterraneo per arrivare in Europa. Di queste 7.111 sono morte nel canale di Sicilia, altre 229 navigando dall'Algeria alla Sardegna. Questo è il numero dei morti contati appunto con questo macabro rituale e questa macabra contabilità da Fortress Europe, che è un sito sempre molto aggiornato. A proposito di storie dall'Africa, vorrei associare questa vicenda che proviene dalla Nigeria, dove da giorni la polemica, ma non solo in Nigeria, è diventata una polemica internazionale anche per l'appoggio di personalità ampie come per esempio anche la Michelle Obama, la First Lady americana, che si è spesa in prima persona insieme a tante altre personalità per la liberazione di 100 e più ragazze nigeriane che sono state rapite dagli integralisti musulmani di Boko Haram, questo in Nigeria. Ebbene, perché la notizia è nuovamente sulle prime pagine dei giornali? Addirittura la Repubblica mette a pagina 2 e 3 con un lungo editoriale di Adriano Sofri. Perché queste ragazze sono state mostrate dai leader di Boko Haram dicendo: ecco qui, le abbiamo convertite all'Islam. Sono state mostrate tutte con il velo tipico islamico. E allora ricatto di Boko Haram, scambio di prigionieri per liberare le ragazze, questo è l'appello del leader di questa setta, si può dire anche, che ha come leader di riferimento, pensate, uno che adesso è morto, che pare sia l'ispiratore, che negava anche il fatto che la terra fosse rotonda. Ecco, stiamo parlando di questa roba qui, tanto per capire. Ebbene, oggi Adriano Sofri in prima pagina di Repubblica, quella paura negli occhi delle ragazze rapite, il video ricatto dei terroristi islamici di Boko Haram. Scrive Adriano Sofri: ieri, grazie all'impudenza dei loro persecutori, le abbiamo viste, le nostre ragazze, rapite, rivestite e velate al gusto di quelli con gli occhi sbarrati dallo spavento, addestrate a pregare con le palme aperte ma non abbastanza da simulare un solo sorriso. Il mondo è ubriaco di petrolio, acqua, traffici di droga, armi, minerali rari, giochi della finanza. Che si combatta una guerra planetaria la cui vera posta è il controllo, la riconquista delle donne, può sembrare una boutade, un'iperbole. I signori di Boko Haram si sono premurati di renderlo evidente come in un manifesto. Centinaia di ragazze rapite dal dormitorio della loro scuola, una delle poche ancora aperte nello stato di Borno, subito dopo aver sostenuto gli esami di fine anno. E poi il capobanda che annuncia che le venderà a 4 soldi per farle schiave o mogli forzate fuori dai confini. E poi ancora il capobanda, Vanesio, come tutti questi epici farabutti, che si dichiara magnanimamente disposto a scambiarle coi suoi adepti detenuti dal governo federale nigeriano, quelle che non si sono convertite, e mostra le altre, quelle che si sono sottomesse, anzi le abbiamo liberate, dice lui. C'è una difficoltà, abbiamo imparato a tradurre adeguatamente il titolo mezzo hausa, mezzo arabo della banda. Boko Haram vuol dire più o meno che ciò che è occidentale è peccaminoso, vietato. Qualche etimologista inclina a pensare che il Boko storpi l'inglese book, libro. L'inglese è una lingua ufficiale in Nigeria. Così questi fanatici del libro sacro da prendere alla lettera sarebbero i vietatori del libro. L'Occidente che aborrono. Il loro fondatore Mohammed Yusuf guidava una Mercedes e negava sdegnato, eccolo qui, che la terra fosse rotonda. Era arrivato in Nigeria col colonialismo e c'è rimasto con le multinazionali del petrolio, ma anche col cristianesimo delle scuole, la bella storia sulla lapidazione mancata dell'adultera. Il governo corrotto, inetto di Abuja ha trattato per anni le stragi di Boko Haram come affari di musulmani che si ammazzavano tra loro, un po' come facevano i nostri governi con le guerre di mafia. E quando ogni tanto decidevano di esibire la loro repressione, emulavano la ferocia dei terroristi. Anche questa volta ad Abuja per un po' hanno fatto finta di niente, anzi hanno denunciato l'allarme sulle ragazze come un diversivo al loro balletto elettorale, come ha scritto Wole Soyinka, scrittore. Poi hanno chiesto aiuto agli occidentali, quello che trepida e prega per le ragazze violate e quello che prega, Cina compresa, per il colossale serbatoio di petrolio e gas che la Nigeria possiede, ma molto lontano dal nord-est. Il titolo è di questo editoriale, quei volti senza sorriso e l'impotenza del nostro mondo. Repubblica decide di mettere a pagina 2 e 3 questo video shock di Boko Haram che porta questa vicenda della Nigeria dritto nelle nostre case. Allora fermiamoci qui per un attimo, c'è la pubblicità e poi ripartiamo da cosa? Beh, ancora inchieste su tutto, l'inchiesta con le prime ammissioni delle tangenti, pagavamo fino a 300-400 mila euro per lavorare, e poi l'inchiesta anche di Scaiola che dice: io sono come Andreotti in carcere. Alessandro Milan, il conduttore così morbido che si taglia con un grissino. Ma chi è questo? Un grande abbraccio caro ascoltatore. Allora la vicenda Expo con gli arresti, gli interrogatori e le prime ammissioni di tangenti. Questo è almeno sui giornali, il Sole 24 Ore titola pagina 6, Maltauro, che è l'imprenditore arrestato, ammette le tangenti. Scrive Angelo Mincuzzi, per Enrico Maltauro 100.000 euro erano un prezzo accettabile per far sopravvivere la sua azienda. Tanti erano i soldi che l'imprenditore vicentino versava ogni anno a Sergio Cattozzo per procacciarsi gli affari necessari a evitare il fallimento dell'impresa di cui era amministratore delegato. In cambio Cattozzo attivava la sua rete di conoscenze, amicizie scaturite dal suo passato nella CISL prima, nell'UDC poi, utili per tessere la rete che conduceva dritto agli appalti. È stato Cattozzo a presentarmi Gian Stefano Frigerio, ha detto ieri Maltauro al giudice per le indagini preliminari che lo ha interrogato. Inizia così. Per la verità ci sono delle spaccature, tanto che Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera pagina 4 e 5 fa proprio sapere questo. Già al primo interrogatorio si spacca subito la squadra, c'è una sorta di linea Maginot con l'ex DC parlamentare berlusconiano Gian Stefano Frigerio, che rivendica solo proselitismo politico, o il consulente delle Coop Rosse Primo Greganti, che rialza il muro edificato 20 anni fa all'epoca di Mani Pulite e commenta solo io commercio in legname, nella filiera del legname, oppure sia l'ex senatore PDL Luigi Grillo, che a fine giornata rischia non ammette nulla, ma questa linea Maginot, racconta Ferrarella, a fine giornata rischia di essere già incrinata, spiazzata dalle ammissioni che arrivano invece da un imprenditore privato come Enrico Maltauro, che conferma di aver sinora pagato almeno fino a 400.000 euro, quanto da un pubblico ufficiale come il general manager di Expo 2015 Angelo Paris, che anticipa di voler spiegare come, perché e a causa di chi sia arrivato a commettere gli errori, così li definisce, di cui si assume la responsabilità, cominciati a pagare con la presentazione delle proprie dimissioni. E dunque Maltauro appunto racconta nell'interrogatorio, dice Ferrarella, chi si descrive disgustato già dagli eventi di Tangentopoli in cui finì, e spiega che essi l'avevano indotto ad allontanarsi dalla gestione operativa dell'impresa per un decennio, e quando però le dinamiche familiari lo inducono a rioccuparsi dell'azienda, Maltauro afferma di essere rimasto allibito da come tutto non fosse cambiato, se non per un aspetto ancora peggiore, e cioè che al posto dei grandi partiti, dove almeno si sapeva con chi dover parlare, un'impresa come la sua si trova a dover invece subire il potere di interdizione di una pluralità di centri di potere parcellizzati, rispetto ai quali sarebbe inevitabile e indispensabile dotarsi di una chiave di interpretazione, insomma di un lobbista capace di capire chi avvicinare e come conquistarne il via libera. L'idea però che è così, cioè la sensazione è che, come racconta questo interrogatorio Maltauro, che o così o non si lavora, questo almeno racconta lui, tanto che i manager sono definiti cosa mia da coccolare come le belle donne. Questa è una serie di intercettazioni che Repubblica ancora mette in prima pagina, e nell'articolo di Piero Colaprico ed Emilio Randacio. Si parla anche, e l'inchiesta potrebbe allargarsi, ai manager delle ASL nominati dalla politica, i quel parco dirigenti sanitari che Frigerio, come scrive la procura, considera come cosa sua, tanto che tutti questi manager pubblici, secondo Sergio Cattozzo, vanno coccolati come belle donne, perché aggiustare le gare d'appalto non è facile, bisogna mettere 20 stecche in forno per tirarne fuori 10, e loro ci riescono. Questa è la cupola di Expo secondo l'inchiesta. Inquietante è anche ciò che scrive il Messaggero in un rapporto della Guardia di Finanza che allarga la vicenda dell'Expo. Silvia Barocci ne scrive a pagina 5, udite udite questa cifra, la finanza irregolare il 68% degli appalti, dunque 7 su 10 controllati tra gennaio e aprile del 2014, il 68% degli appalti pari a 560 milioni di euro è risultato irregolare in questo allarmante e inedito bilancio che il comandante generale della Guardia di Finanza Saverio Capolupo farà stamane alla scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e che è anticipato oggi dal Messaggero. 68% degli appalti irregolare. Poi, come detto, c'è anche l'aspetto tra il trash e lo squallido. il colorito, se volete, no? La missione di Cattozzo, che quando è stato arrestato, dice, nascondeva i post-it con gli appunti delle presunte tangenti nelle mutande, perché finiscono sempre un po' così, c'è anche l'aspetto ridicolo, no? Finiscono nelle mutande, metteva i post-it con le tangenti davanti alla Guardia di Finanza. Intanto oggi a Milano c'è Renzi per cercare di rilanciare l'Expo, come racconta il Sole 24 Ore, ieri lo anticipava il Corriere, Eugenio Bruno e Sara Mona ci racconta la pagina 7 che sono due manager nella nuova squadra, oltre a Marco Rettighieri che viene dalla TAV. Dovrebbe esserci anche la coordinatrice della task force Elisa Grande, arriva dalla presidenza del Consiglio, vanta lì una lunga esperienza come dirigente, la nomina dovrebbe essere ufficializzata proprio nella giornata di oggi. Insieme a loro il nome già noto e arcinoto di Raffaele Cantone, capo dell'Autority Nazionale Anticorruzione, che abbiamo avuto anche ieri a questi microfoni e che dovrà avere un ruolo in quanto presidente appunto di quest'ente. Comunque sì, finiscono sempre un po' nel ridicolo, nelle mutande. A proposito di ridicoli, voglio salutare Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Ah, buongiorno, buongiorno. Scusa, ma quella di ieri su Atalanta mi è rimasta un po' qua e dovevo... Ma è strano, perché invece ho ricevuto diversi segni di compiacimento da parte mia? No, da parte di ascoltatori, ascoltatrici, eccetera. Ci sono ancora degli interisti, grazie ad Allah, mi verrebbe da dire. No, ma c'è proprio una piaciuta per la cultura classica in generale. Ti è piaciuta questa battuta che ha fatto Toir? Grazie, voi vincete grazie ad Allah. Vabbè, questo. Senti, volevo dirti, hai guardato la cassetta della posta? Hai ricevuto delle lettere? Potresti ritrovare una lettera che comincia così: gentile contribuente. Sì, infatti ho fatto piombare la casella della posta, non la apro da due mesi. È la lettera del redditometro. Se non l'hai ancora ricevuta, caro Alessandro, se non l'hai ancora ricevuta, controlla la cassetta della posta. Però puoi anche guardare sul Sole 24 Ore, dove spieghiamo appunto come avvengono queste temute contestazioni da parte del sito. Ma se uno legge l'articolo, vale come lettera ricevuta oppure no? No. L'articolo ti prepara alla ricezione della lettera, poi la lettera naturalmente arriva e comincia così: gentile contribuente o aspirante tale, si potrebbe anche dire, però insomma dipende dai casi. Adesso in qualche caso le contestazioni poi saranno contestabili a loro volta, perché non è detto che le contestazioni siano comunque sempre fondate. E questo è la cosa che ti volevo dire, anche augurandoti appunto questa attenzione da parte dell'Agenzia delle Entrate, visto il lancio anche sempre benevolo che tu usi nei miei confronti. Grazie. Invece stai tranquillo sulla TASI, perché stanno studiando una proroga sostanzialmente, quindi non andremo probabilmente a pagare al 16 di giugno per la TASI, poi c'è tutto il resto del COTE, delle imposte immobiliari locali, quindi IMU, IUC e quant'altro, però probabilmente per la TASI ci sono già prove di rinvio. Vabbè, almeno lo vedi nelle pagine di norme e tributi di oggi. Poi domani, mi raccomando, domani c'è l'inserto, il primo dei due inserti sulla dichiarazione dei redditi. Tu sei preparato sul punto? Preparatissimo. Molto bene. Ecco, ti ricordo anche di leggere in copertina oggi delle pagine di norme e tributi, nella prima delle pagine di norme e tributi, la messa alla prova. Sì. Perché da sabato c'è una modifica interessante, praticamente per alcuna serie di reati, tra cui i reati cosiddetti dei colletti bianchi, si potrà chiedere la messa alla prova in luogo insomma di subire la sanzione, ad esempio, della detenzione o quant'altro, e questo consentirà anche di estinguere il reato medesimo. Ma te lo spiega molto bene Giovanni Negri, meglio di come abbia fatto io. Non è difficile. Vabbè, comunque te era piaciuta questa stilettata, leggiti poi la pagina di condominio, mi raccomando. Poi sul condominio ti interrogo e non vogliamo fare cattive brutte figure. Benissimo, caro Mario. Questo per oggi è quanto, molto altro naturalmente sul Sole 24 Ore, ma se noi passiamo il tempo a discutere di amenità calcistiche, poi io non ho tempo di segnalare le cose utili, importanti, che i lettori possono trovare. È chiaro. è chiaro. E questo, ma e c'è di questo mi lamenterò con chi di dovere, caro Mila. Ovvio. Butto già i ceci. Esatto, vai. Fai molto bene. È il mio momento? È il tuo momento. Ok, traffico. È arrivato l'arrotino. Alessandro Milan, l'arrotino dell'informazione. Arrota coltelli, forbici, forbici. Grandissimo. Forbici da seta. Grandissimo l'arrotino. Vabbè, insomma, c'è la vicenda invece Scajola. Scajola è stato trovato, è andato a trovarlo in cella il senatore, suo amico Lucio Barani, 61 anni, del gruppo GAL. Ebbene, che ha detto Scajola? Io sono come Andreotti, dovranno scusarsi. Lo vuoi sapere? Titola a pagina 9 del Corriere della Sera, sto leggendo l'articolo di Fabrizio Caccia. Io qua dentro sto attentissimo a tutto, mi curo meticolosamente, curo il diabete e l'ipertensione. E farò come Andreotti, resisterò tenacemente a tutte le accuse, al fango come il divo Giulio, e alla fine tutti, dai magistrati ai giornalisti, mi dovranno chiedere scusa pubblicamente. Avete capito, cari italiani? Tutti a chiedere scusa. Ormai ancora il ragionamento di Scajola affidato a colui che è andato a trovarlo. Ormai siamo in una dittatura. Non è più democrazia. Ormai si agisce con metodi da criminalità organizzata. Arrestano la madre e la moglie di Matacena per farle parlare. Eccoli i metodi. Ma io non soccomberò, anzi ne uscirò alla grande. Allora, accanto a questo c'è la vicenda Rosa, che non è solo riguardante i rapporti tra Scajola e appunto la moglie di Matacena. Ora ne è spuntata un'altra di vicenda Rosa. L'ultima notte, l'ultima sera, non notte, Claudio Scajola l'ha passata in albergo con una signora che ora viene intervistata dai giornali. Rosa Criscuolo, avvocatessa matrimonialista napoletana, già fondatrice dei forzisti pro Nicola Cosentino. E lei al Corriere dice: oh mamma, adesso diranno che li porco, io porto male, li arrestano tutti quelli che frequento. Insomma, la foto mostra delle grazie certamente prorompenti, la trovate un po' ovunque sul Corriere della Sera, io l'ho messa anche sul mio profilo Twitter. E allora, era lei a cena con Scajola in albergo l'ultima sera? Chiede Giovanna Cavalli sul Corriere. Sì, ero io, ma per favore, mo non ci inzuppate il biscotto. Questo è l'inizio dell'intervista. Abbiamo parlato del partito, poi era tardi, abbiamo cenato in camera. Scaloppine al limone, niente vino, sono astemia. Lui guardava un film alla TV, una storia d'avvocati, era molto preso. Niente dopo cena? Chiede il Corriere. No, grazie, la scaloppina se ne scende da sola. Lui era la 213, io la 203, non mi alzo di notte per correre da Scajola, non è cosa, è un tipo quieto, serio e un poco andato d'età. E aveva anche un fortissimo mal di testa, forse il presentimento. Rosa Criscuolo, che diventa la nuova protagonista di un giorno sui giornali o di qualche giorno, viene intervistata anche dal Messaggero Giuseppe Grimaldi e conferma: insomma, siamo andati a cenare in camera sua solo perché al ristorante, vedendoci, qualcuno avrebbe montato una storia e allora ci sembrava più opportuno, avremmo potuto parlare meglio delle cose politiche. Vabbè, ovviamente tutti insinuano, ma è possibile che ci sia stata solo una cena? Scusi, si renderà conto che non è facile credere a un incontro politico di sera in una camera d'albergo? E invece sì, finita la cena, siamo andati e ognuno è andato nella sua camera, anche perché, dice Rosa Criscuolo, sgombriamo il campo subito dei dubbi, io non ho una relazione con l'ex ministro, potrebbe essere mio nonno, sa com'è, fino a Cosentino potrei arrivare, ma Scajola no, per favore. Ecco, questo, così parlò Rosa Criscuolo. Va bene, c'è solo tempo per, prima di chiudere, per dire che Libero ha questa notizia in apertura che viene sparata in prima pagina, che magari avrà degli strascichi, vedremo un po'. Pagina 2-3, Libero accusa uno dei magistrati del collegio della sezione federale di Cassazione che ha condannato Silvio Berlusconi, Claudio Disa. Ha delle strane relazioni, questo è il titolo, le strane relazioni del giudice che ha condannato Berlusconi, pagina 2 e poi 3 c'è anche un'intervista, ha una relazione con la famiglia Terenzio che, stando ai magistrati di Frosinone, è vicina a membri della camorra. Claudio Disa fa anche un'intervista, intervistato da Giacomo Amadori, dice: ho visto i Terenzio solo una volta, nella mia posizione non posso frequentarli, ma dice effettivamente mio figlio frequenta uno dei figli di Terenzio. Insomma, questa è l'accusa che Libero fa, le strane relazioni del giudice che ha condannato Berlusconi. Siamo però al momento conclusivo, perché la rassegna stampa è sempre più corta, bisogna sempre più volare. Allora oggi vince, per l'articolo più inutile scovato sui giornali, il premio La Carta Costa, il quotidiano Libero, che dedica un editoriale in prima pagina. In prima pagina firma Gemma Gaetani a cosa? Al guardaroba della Boschi. Il ministro Boschi, sentite l'inizio dell'articolo, era dai tempi in cui falcavano in Parlamento le gambe di Ilona Staller che gli ormoni dell'italiano medio non pulsavano così davanti a una politica. Maria Elena Boschi. E poi la riforma più urgente del ministro Boschi, il guardaroba. Ma dai su, mamma mia, che livello! E come al solito sarà il primo articolo che leggerò tra poco. Bene, La Carta Costa, andiamo al giornale radio.